Pinelli, due gesti disperati a causa della crisi. Nello stesso giorno, un uomo di 72 anni, ora in fin di vita in ospedale, ha tentato il suicidio a Napoli sparandosi alla testa dopo aver ricevuto una cartella esattoriale. Doveva pagare 15.000 euro. A Enna, invece, un uomo di 47 anni, padre di due bambini di 4 e 9 anni, si è impiccato dopo essersi visto ridotto le ore di lavoro nella ditta per cui lavorava. A scoprire il corpo è stato il suocero, che da tempo sosteneva economicamente la famiglia. Versano in gravi condizioni 5 dei 17 feriti nell'incidente avvenuto questa mattina alle 8 sulla A13 in direzione Padova. Il pullman su cui viaggiavano si è ribaltato, 5 i morti. A bordo c'erano 23 persone, erano carabinieri in congedo, familiari che stavano raggiungendo Jesolo, dove era in programma il raduno nazionale dei carabinieri. L'autista del pullman è illeso, fra le ipotesi c'è quella di un colpo di sonno, un malore o un guasto all'autobus. L'uomo sotto stato di shock è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Almeno 27 persone sono morte nelle violenze di oggi in Siria, secondo quanto hanno riferito gli attivisti dei comitati locali di coordinamento. Lo riporta l'emittente araba Al Arabiya. La petroliera Erika Lexi è salpata alle 23 ora locale, 19.30 in Italia, dopo aver ottenuto gli ultimi permessi dalle autorità doganali e portuali di Kochi. È la nave dove erano in servizio i due marò italiani arrestati in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori. Su 19,2 milioni di prime case, 14,6 milioni, quindi il 76%, dovranno pagare l'IMU e 4,6 milioni, quindi il 24%, saranno esenti in virtù delle detrazioni. E quanto emerge da uno studio del Dipartimento delle Finanze, che stima il gettito complessivo sulla prima casa in 3,4 miliardi di euro. In media si pagheranno circa 235 euro. Sarebbe pronto il decreto ministeriale sugli esodati, che potrebbe essere varato nei prossimi giorni. Riguarderebbe al momento solo 65.000 persone, sugli altri si aprirà il confronto il 9 maggio. Duro commento della segreteria della CGIL e della Camusso, secondo la quale il governo rischia di fare lo stesso errore fatto con le pensioni. C'è una convocazione la prossima settimana, ha detto la Camusso. Fare un decreto il giorno prima vuol dire che non c'è volontà di relazione con le forze sociali. La Camusso conferma però la presenza al tavolo. Urne aperte domani lunedì nel primo test elettorale da quando è in carica il governo Monti. Sono oltre 9 milioni i cittadini chiamati al voto per scegliere sindaci e consiglieri comunali di 942 municipi. 26 i comuni capoluoghi coinvolti. Le sfide più attese riguardano Genova, Verona, Parma e Palermo. I seggi saranno aperti domani dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. In queste ore si stanno concludendo le operazioni di insediamento delle sezioni elettorali. Sono le 22:03, è tutto per questa edizione. Un saluto da Cristina Carpinelli, ci risentiamo alle 23. Ristorante Giardini di Marzo. Sì, sì, caldo ma non troppo. Ci saranno 25 gradi. L'aria? Sì, sì, sì, fresca e profumata. Ah, quindi vuole disdire la prenotazione. Per un allergico la primavera non è così piacevole. Contro i sintomi della rinite allergica puoi provare Reactine Compresse. Veloce quando serve. È un medicinale, non somministrare al di sotto di 12 anni. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Gli speciali di Radio 24. Alle 22:04 torniamo insieme in studio per proseguire in questa lunga notte della Notte Verde del Nord-Est, che è anche la Notte Verde di Radio 24, nella quale appunto ci stiamo collegando con diversi comuni che questa sera stanno festeggiando a modo loro la green economy, per farla conoscere alla popolazione, per parlarne, per domandarsi quale futuro può dare a queste regioni, che tra l'altro sono già in realtà tra le regioni più green di tutta Italia. Comunque, quale futuro può dare la green economy a queste regioni da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista della salute dei cittadini, del benessere. E stiamo chiedendo anche a voi che cosa fate per salvaguardare l'ambiente. Lo potete fare, potete risponderci scrivendo al 349-238-6666 oppure telefonando all'800-24-0024 oppure scrivendoci all'altropianeta@radio24.it, come ha fatto Paolo Artusio, che tra l'altro è una un affezionato ascoltatore che ci informa che ha messo in rete gratuitamente il suo libro in cui tratta di contenimento degli sprechi e di gestione domestica. Il libro si chiama La patente di guida per la casa, per chi avesse voglia di cercarlo. L'autore è Paolo Artusio. C'è poi chi ci scrive della sua attività imprenditoriale. Da 2 anni ha aperto il primo negozio di abbigliamento biologico nella provincia di Treviso perché crede appunto in questa opportunità come un'opportunità per la sua salute, la salute ovviamente anche dei clienti, ma anche come un'opportunità di business. Quindi se volete ci scrivete l'altropianeta@radio24.it. A questo punto è il momento di parlare di amministrazioni verdi. Abbiamo in collegamento con noi Alessandro Zan, che è assessore all'ambiente del Comune di Padova. Buonasera, assessore. Buonasera a voi, buonasera. La sentiamo un po' gracchiante come telefono, però vabbè, la voce si sente squillante dalla regia, sì, va bene. Sono in esterna perché siamo ancora... Siete ancora in giro? Fase, diciamo, della notte verde, della parte della notte, e forse si sente male per quello. Può essere. Che fate a Padova per questa notte verde? Che per strada, perché poi parliamo della scuola di altra amministrazione, ma per strada cosa c'è? Ma abbiamo... realizzato un bel po' di convegni anche in interno oggi e anche ieri. Questa mattina abbiamo avuto il ministro dell'ambiente Corrado Clini e adesso sono in corso alcuni spettacoli lungo il centro storico, tra cui anche uno spettacolo sulla terra, sull'agricoltura, uno spettacolo teatrale fatto da giovani attori, molto bello e molto interessante. Poi noi forse faremo sentire, se riusciremo, se avremo tempo, un altro spettacolo che è andato in scena a Venezia nel pomeriggio, quindi tanti sono davvero stati gli spettacoli ispirati a questo tema della green economy, del rifiuti da riciclare, penso a quello di Venezia, a tanta fetta di questo mondo della sostenibilità. Veniamo a noi a questo punto, però parliamo della scuola di altra amministrazione, progetti a costo zero, iniziative virtuose e sostenibili. Che cosa avete insegnato ai sindaci, vice sindaci, consiglieri, coloro che hanno partecipato a questa giornata di studi? Ma abbiamo innanzitutto fatto presente come le amministrazioni possono iniziare anche da piccole cose come gli acquisti verdi. Che si riesce a fare, perché tanti si lamentano che ci siano tanta burocrazia, tanta difficoltà, invece si riesce? No, si riesce a fare, l'importante è nei bandi di gara, perché le amministrazioni pubbliche devono ovviamente, sono soggette a gare come enti pubblici, bisogna inserire nel capitolato alcuni requisiti che limitano, diciamo, l'accesso solo alle aziende, a determinate aziende che hanno requisiti ambientali. Noi ricicliamo... acquistiamo carta riciclata per il 95% di tutta la carta, stampanti, fotocopiatrici a risparmio energetico, piuttosto che anche i vestiti della Polizia Municipale sono le divise sono tutte certificate, sia per la filiera produttiva che è sostenibile da un punto di vista ambientale, ma anche per le condizioni di lavoro delle persone che producono anche queste stoffe, questi manufatti, la cui condizione deve essere garantita da un processo di certificazione particolare. Per cui gli acquisti verdi sono uno degli elementi che possono caratterizzare un'amministrazione piuttosto che no. Chi, se penso alla provenienza geografica, chi ha partecipato alla scuola? Ma la prevalenza, diciamo. Alla scuola di altra amministrazione partecipano amministratori che vengono da vari comuni. La cosa importante di questa iniziativa... No, ma stavo pensando più nord, centro, sud, molto semplicemente, perché per le amministrazioni virtuose, ad esempio, il Veneto è tra le più avanzate, forse la prima in classifica. Mi incuriosiva sapere chi poi segue anche queste attività per migliorarsi, perché in futuro ovviamente ci auguriamo tutti che tutte le amministrazioni diventino via via più virtuose. Certo, il Veneto è sicuramente la regione fiore all'occhiello per quanto riguarda le amministrazioni virtuose, però ci sono anche piccoli comuni del sud o del centro che hanno veramente svolto delle buone pratiche che possono essere imitate. Devo dire che i comuni che hanno partecipato a Padova sono comuni di ogni parte, che vengono da ogni parte del paese. E la cosa che noi abbiamo fatto in questa scuola è quella di innanzitutto far vedere tutte le buone pratiche, in modo tale che queste siano replicabili anche in altri comuni. Cioè, se un comune ha avuto un'idea ed è riuscito a realizzarla, è bene che come dire, porti a conoscenza anche di altre amministrazioni questa buona pratica, affinché anche altri comuni la possano realizzare. Dunque la condivisione e la replicabilità di queste buone pratiche sono un fatto assolutamente importante, essenziale per diffondere queste buone pratiche anche negli altri comuni. Dunque, assessore, adesso sentiamo che la notte di Padova si sta animando, quindi noi la lasciamo alla notte di Padova, però se vuole seguire l'intervento del prossimo ascoltatore lo commentiamo insieme e poi appunto i festeggiamenti possono continuare. L'ascoltatore ci chiama da Ancona, si chiama Marco. Ah, e purtroppo è caduta la linea con Marco da Ancona. Se riesco a interpretare, intanto il suo pensiero era: tutti vogliono a parole la green economy, ma in realtà poi dopo alla fin fine vanno in giro con grosse macchine. E nel suo caso, perché lui si parla di Ancona, abbiamo rovinato le nostre colline con distese di pannelli solari. È effettivamente... Ah, Marco è arrivato. Marco, eccola. Sì, buonasera. Buonasera, io ho un po' anticipato. Tutti parlano di green economy, vero, questo è il senso del suo intervento, ma poi dopo, quando stringi, andiamo nei fatti, tutti vogliono anche le grandi macchine e così via. No, non è questione, anche nessuno le vuole. Il problema è che a quel signore... prima in maniera molto simpatica si meravigliava di un'auto elettrica lì in città, suggerisco di prendere alcuni camion rimorchio, caricarle tutte e buttarle da qualche parte che non rovina l'ambiente, perché con tutto l'affetto e la simpatia, ma il piacere per chi ama i motori di un 12 cilindri, che è un'orchestra, mette sulla questione dell'automobile, però il lavoro di chi ci lavora. E naturalmente questa è una provocazione, cosa voglio dire? Il problema no, perché è... non mi trova su questo punto, perché non, sinceramente io non è che ho la passione dei 12 cilindri. Difatti questa è una provocazione, però le voglio dire adesso il rovescio della medaglia di questa provocazione. Lei si immagina le nostre colline, tanto decantate da scrittori, poeti, oggi piene di pannelli solari, di questo grigio che poi diventa ruggine, è patetico, e questo è il bello, questo è l'inizio della decadenza. Per risparmiare cosa? La primavera era bella quando si vedeva il verde, quando si vedeva le nostre colline così. Se va bene così, come dice Parenzo sulla zanzara, se le piacciono così va bene così. Perciò la mia è una doppia provocazione. Bene, la ringrazio Marco D'Ancona. Assessore Zanna, in realtà poi forse il conflitto è tra ambiente, crescita, le energie, come le produciamo. Insomma, c'è, in effetti ci sono tante provocazioni in una, quella dell'ascoltatore. Certo. Il radioascoltatore sottolineava un aspetto importante, cioè noi per Green Economy dobbiamo anche fare riferimento a tutto ciò che è sostenibile, che non deturpa il paesaggio. Siccome vi sono moltissimi tetti di abitazioni, ma anche di capannoni, fabbricati, industriali, che possono essere coperti da pannelli fotovoltaici, dunque utilizzare già gli edifici esistenti per collocare pannelli fotovoltaici e produrre energia elettrica da fonti rinnovabili. Deturpare un paesaggio delle colline, anche qui si può evitare di farlo, perché ci sono tantissimi edifici anche dismessi in tante zone industriali che possono essere edifici sui quali si collocano i pannelli fotovoltaici, per cui ci vuole anche buon senso. Ci vuole buon senso anche da parte delle amministrazioni e degli amministratori, ovviamente. Dopodiché la green economy è una speranza per il futuro, perché oggi vediamo benissimo come non ci sia lavoro, soprattutto per i giovani. Abbiamo sentito un dato molto allarmante: più del 35% dei giovani italiani non ha un lavoro. In più, i giovani che hanno un lavoro lavorano con contratti atipici, più di 47 contratti atipici che rendono precaria la loro vita lavorativa. E la green economy invece si occupa non solo di di una sostenibilità per l'ambiente, ma anche di una sostenibilità per il lavoro e per la qualità della vita delle persone. Dunque lavori ad alta innovazione tecnologica, come abbiamo visto in Germania che in poco più di un anno con la Green Economy si sono creati 300.000 posti di lavoro. Certo. E dunque in un momento in cui il lavoro manca, il risparmio energetico, risparmiare energia, che significa risparmiare costi della bolletta, dare la possibilità per ottenere questo risparmio a tutte le piccole e medie aziende che magari erano aziende edili e si riconvertono in aziende green, a produzione verde, questo può essere un volano veramente importante, e perdere questa occasione, per questo abbiamo anche pensato alla Notte Verde come occasione di sensibilizzazione per i cittadini e per le imprese, perdere questa occasione significa perdere un po' del futuro, perché noi oggi abbiamo la possibilità, visto che sprechiamo molta energia, e quella che produciamo la produciamo dal petrolio e dal carbone anziché dal sole e dal vento, questa è una grande occasione non solo per tutelare l'ambiente ma anche per creare occupazione in questo momento in cui ce n'è veramente bisogno. Alessandro Zan, assessore all'ambiente di Padova, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona serata. Sono sempre i Manzella Quartet, la nostra eco band, quella che suona con, per intendersi, l'asse per lavare i panni, il bastone della scopa e cose di questo genere. Abbiamo parlato di impianti contestati, chissà se lo è stata anche la centrale a biomassa di Gorizia. Giuseppe Fiannacca, buonasera. Ci sente, direttore? Non ci sente il direttore della centrale a biomassa di Gorizia, ci incuriosiva perché la prima centrale a oli vegetali è stata realizzata appunto a Gorizia, è entrata in funzione da poco, circa un mesetto. Nel frattempo possiamo sentire però, visto che tanto si parla ancora di energie, un altro ascoltatore che ha chiamato l'800240024, Stefano da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Anche lei ci parla di energie, vero? No, io vi parlo. Come no? Sì, in un certo senso sì, di energia, ma ho sentito parlare di vetture elettriche. Elettriche. Fanno discutere queste auto elettriche, ci dica. Sì, esatto. Allora, c'è una campagna che sta girando per le città italiane, organizzata da varie case automobilistiche con i loro prodotti, chiamiamoli green, che sono macchine elettriche, autonomia estesa, ovvero motore elettrico per la trazione e motore a combustione per alimentare le batterie, oppure abbiamo delle macchine ibride, cioè delle macchine che hanno un motore a combustione e un motore elettrico che aiuta a spingere la macchina, diminuendo i consumi, oppure abbiamo delle macchine elettriche che si attaccano proprio solo alla presa di corrente di casa nostra, più o meno, e che però poverine hanno il problema di un'autonomia ridotta. Però il punto qual è? Il punto è molto semplice: dove viene prodotta l'energia elettrica? Facciamo finta che comunque stiamo parlando di macchine realmente elettriche. Se però noi andiamo a produrre energia elettrica con centrali a combustione termica che utilizzano idrocarburi, abbiamo solo spostato l'inquinamento, cioè abbiamo spostato dalla nostra città a dove produciamo l'energia elettrica. Fantastico il signore di Bolzano che dice bellissima la macchina elettrica. Sì, però io piuttosto avrei detto: accidenti, noi a Bolzano abbiamo riscaldamento. Era Bassano, comunque, non era Bolzano. Sì, quello di Bolzano era in bici, quello di Bassano era quello invece nell'auto elettrica, sì. Sì, quello di Bolzano in bicicletta, bellissimo, dice così non inquino, eccetera. Però a Bolzano, nelle valli limitrofe, l'energia, il riscaldamento principalmente viaggia a gasolio. il Trentino Alto Adige ha una normativa per cui la popolazione può utilizzare 4 metri cubi di legna che si va a prendere da sole e la brucia, e da un punto di vista ecologico non è proprio il massimo, quindi c'è un, diciamo, un qualcosa di marketing in questo momento per spingere il consumatore verso queste novità, ma poi effettivamente se noi andiamo a fare un bilancio energetico di queste cose ci troviamo a fare i conticini della serva e vediamo che è un po' peggio di avere magari una macchina, come si dice, piccola, combustione tradizionale, che consuma poco e non ha tecnologie. Sì, ma comunque abbiamo capito, insomma, bisogna tenere, fare il conto di tutto e non dimenticarsi delle cose importanti, anche perché quello che ci può sembrare qua ecologico poi magari in realtà altrove ha inquinato. Ringrazio Stefano da Milano, ricordo 800 24 0024 per i vostri interventi. Adesso abbiamo veramente Giuseppe Fiannacca, che ricordo direttore della centrale a biomasse Sant'Andrea, siamo a Gorizia, buonasera. Buonasera a lei. Allora, io ho detto molto rapidamente, la prima centrale a oli vegetali, che cosa vuol dire, che cosa arriva lì in centrale? Beh, effettivamente non è che sia proprio la prima in Italia. No, la prima di Gorizia. A Gorizia, sì, è stata la prima e anche, diciamo, abbastanza ben accolta, anche se in una prima battuta evidentemente quando si parla di centrali di produzione di energia elettrica ci sono sempre delle remore o comunque delle perplessità. Evidentemente abbiamo fatto un lavoro molto importante col territorio, abbiamo fatto capire che in fondo di quello che stavamo intraprendendo era una cosa che poteva essere positiva anche sul territorio, che per la verità non è la prima iniziativa che facciamo. Varie tipologie, da una cogenerazione a un ciclo combinato turbogas turbovapore, e questo che è un ciclo combinato con alimentazione a biomasse liquide, abbiamo come dire portato in un territorio che prima non esisteva una cultura che ha fatto sì che si stanno creando anche delle eccellenze. Ecco, perdone, sì, prego. No, concluda. Niente, volevo fare come dire un po' un discorso che va sia a cappello che anche a latere di questo, perché appunto ho ascoltato la vostra trasmissione utilissima fino a questo momento e non vorrei apparire né presuntuoso e neanche avere pretese di, però vorrei come dire definire un attimo di cosa si parla quando si parla di energie rinnovabili, no? Ecco, e intanto sono tutte di origine solare, è il sole che mette in moto direttamente o indirettamente i vari meccanismi atmosferici, quindi pioggia, vento, onde, correnti marine, biomasse fanno parte di quei fenomeni. Pronto? Direttore? È caduta la linea, purtroppo non siamo riusciti a concludere il pensiero, ma cerchiamo di recuperarlo senz'altro, perché era tutt'altro che un pensiero peregrino quello che ci stava esprimendo il direttore Fiannacca. Tommaso Dal Bosco, intanto parliamo con lei, che è in collegamento con noi da Mel. Si è in provincia di Belluno? Dico bene? In provincia di Belluno. Benissimo. Una meravigliosa cittadina di 5.000 abitanti in provincia di Belluno. Siamo sulle montagne, perché se c'è lei siamo sulle montagne senz'altro. Non siamo in una quota, ad una quota altissima, ma siamo assolutamente in montagna. Questo anche a testimoniare quanto l'altimetria sia una metrica non adeguata a seguire la verifica di montanità. Allora, lei è responsabile del progetto Green Communities e lì in montagna è arrivato per l'appunto per parlare di montagne, di come recuperare, far rivivere anche le nostre montagne. Lo fa attraverso un progetto che nasce nel sud Italia e che stavolta arriva al nord, è una cosa all'incontrario facciamo rispetto a quelle solite. Sì, diciamo che... Ci dica un po' di questo Green Communities. Sì, il driver in questo caso non è la nascita spontanea del progetto, che nasce invece in un ambiente istituzionale, e è un progetto che a valere sui fondi strutturali europei del Ministero dell'Ambiente, che sono fondi destinati alle regioni obiettivo convergenza. Questo è il motivo per cui un gruppo di esperti provenienti da tutte le parti d'Italia in realtà sperimenta con noi attraverso quali maniere le comunità locali, specialmente rurali e montane, possono ristrutturare il proprio modo di essere, il proprio sistema istituzionale, la propria economia, la propria socialità, sfruttando la leva che gli deriva da quella che viene chiamata comunemente green economy, che rimette al centro risorse che eravamo abituati a considerare ormai residuali, come appunto il bosco, la legna, sentivo parlare poco fa da Gorizia, ma anche prima altri interventi nella vostra trasmissione, lo spazio territoriale, il vento, l'acqua, appunto come leva per poter rivitalizzare economie che dopo la stagione industriale di questo paese, che ormai è evidentemente verso la fine, manifatturiera intendo, possano rinascere, ecco. E quindi lei è lì appunto per discutere di questo. L'avete fatto nel pomeriggio. Che impressione ha tratto, diciamo, da questo incontro che c'è stato nel pomeriggio? Qual è stata la reazione del pubblico, ad esempio? Beh, il pubblico di Mele è un pubblico formato. Non siamo qui per caso. Appunto, nonostante il progetto sia in questo momento centrato nella sua fase sperimentale nel sud, in particolare in Campania, in Calabria ed in Sicilia, in realtà i prodromi sono nati proprio in questa zona qua, ed è per questo che siamo venuti a restituire con gratitudine a questa comunità la possibilità che ci ha dato volontariamente di darci appunto la possibilità di testare gli strumenti di approccio, strumenti di tipo analitico, perché quello che facciamo noi è andare a rilevare quelli che sono i meccanismi, i processi attraverso i quali vengono svolte le funzioni più importanti dalle comunità locali di sviluppo socio-economico di territorio, andare ad analizzarle e capire come si possono ristrutturare alla luce delle nuove opportunità. Mel e il Bellunese sono stati un'area in cui appunto queste cose siamo venuti a studiarle un po' prima per capire come avremmo potuto poi applicare queste metodologie in tutto il resto d'Italia. È chiaro che ha. E quindi è stato un lieto rientro, insomma, ecco. Sì, un lietissimo rientro, una sala tra il resto pienissima, come sempre più di rado accade, come sanno quelli che frequentano come me spesso i convegni, dove sempre più spesso le tavole dei relatori sono molto più dense e frequentate di quelle del pubblico. Invece una sala molto piena di belle facce interessate e molto appassionate. Molto bene. Allora, a proposito di, io la ringrazio, Tommaso Dal Bosco, ricordo, responsabile del progetto Green Communities e a proposito di persone interessate, Giuseppe da Pistoia, buonasera. Lei ha chiamato l'800 24 00 24, sì, per dirci cosa? Senti, no, io volevo rispondere a quel signore che diceva che i pannelli solari o comunque le energie rinnovabili sul territorio sono un impedimento estetico, no? Che fanno, che distruggono l'aspetto estetico del territorio. Io invece volevo porre la questione che invece possono essere utilizzate per creare estetica, perché se si considera che l'estetica, no, in fondo non è altro che il bello, ma che è il bello ricco di significato, no? Se oggi si mettesse, non so, un Davide di Michelangelo, una copia in un giardino, è una cosa veramente oscena, no? Addirittura, cioè un nudo osceno. Mentre dei pannelli solari, secondo una disposizione che si intona con il territorio, che forma degli archi, che forma, può essere utilizzata per dare significato, e quindi è un intervento assolutamente estetico. Ecco, era questo che volevo dire. Cioè, non va. Ma ha fatto bene a ricordarlo, perché comunque ci sono molti studi. L'assessore Zan ci diceva prima, appunto, si possono posizionare i pannelli sui capannoni industriali, si può sicuramente fare di meglio di quanto non è stato fatto, e sicuramente non è stato fatto nelle Marche, da cui ci parlava. Opere d'arte, vorrei dire, no? Si possono fare opere d'arte con i pannelli solari, no? Oggi farle di marmo, no, ha meno significato che farle con i pannelli solari, perché l'arte deve parlare il linguaggio del tempo, non può ricorrere, no? Un Davide di Michelangelo oggi è un obbrobrio, no? Una copia, no? Una copia, mm-hmm, di un giardino, mentre un'installazione di pannelli può diventare. Diventa veramente un'opera che ha significato, che quindi è bellissima, è estetica perché ha significato, è questo che volevo dire. La ringrazio, Giuseppe Giuseppe da Pistoia, ci troviamo tra pochissimo dopo la pubblicità con gli altri ascoltatori e con altri ospiti per la Notte Verde. Dai uno schiaffo a Carovita, nuovo Opel Corsa GPL Tech, un pieno a soli 29 euro e oggi il GPL Tech è gratis e in più fino a 2000 euro di extra bonus Opel sulle vetture in pronta consegna. Ti sei ricordato troppo tardi che oggi è il suo compleanno? Tadan! Questo è il momento di 89 24 24. Ti faccio consegnare delle rose direttamente al ristorante. Semplice, comodo, veloce. Info e costi 89 24 24.it. Gli speciali di Radio 24. Mezz'ora insieme per questa Notte Verde di Radio 24 e Notte Verde del Nord-Est. I vostri interventi 800 24 00 24 oppure 349 238 6666. Ad esempio c'è chi ci scrive: nel 2000 ho venduto l'auto nuova e preso un'auto usata a GPL. Sentivo forte l'assurdità di pagare le tasse per inquinare. Da 5 anni mi riscaldo a legna, prevedo pannelli solari termici, ecco, sì, aveva abbreviato fin troppo. Purtroppo non posso andare in bici, ma insomma si è dato molto da fare, direi, questa ascoltatrice, Susi, firmato Susi. Abbiamo ritrovato Giuseppe Fiannacca, ricordo il direttore della centrale biomasse Sant'Andrea, eravamo a Gorizia. Fiannacca ci stava dicendo, sappiamo che c'è un forte temporale, però volevamo farle concludere il suo pensiero sulle energie rinnovabili. Sì, certo, stavo appunto dicendo che appunto pioggia, vento, onde, correnti marine e biomasse fanno parte di quei fenomeni della biosfera terrestre che sono azionati dal Sole, no? Ecco, le uniche non rinnovabili, non di origine solare, sono quelle dovute alla geotermia e alle maree, che c'entra la Luna ma anche un pochino il Sole. Ecco, avrei voluto raccontare più cose, però il temporale ci ha un po' interrotto. Sì, purtroppo è andata così. Questo è il concetto, secondo me, molto importante. Il lato debole di queste energie rinnovabili, tranne le biomasse e l'idroelettrico, è di essere molto diluite, discontinue ed intermittenti. Allora, la sua radio è una radio autorevolissima, quindi può raggiungere, come dire, il cuore di certe intelligenze e non solo. E la proposta che faccio è questo: il futuro delle nuove generazioni, dei nostri nipoti o pronipoti, che avranno un grossissimo problema di gestire una delle crisi energetiche che si profilano più importanti e mai immaginate, ecco, dovrebbero concentrarsi sia intelligenze che risorse, ma tante. Ecco, io sto parlando di un progetto che assomiglia a quell'Apollo per lo sbarco sulla Luna o il Manhattan per la costruzione della bomba atomica, e rendere queste energie rinnovabili, che sono diluite, discontinue e intermittenti, di renderle non diluite, costanti ed affidabili. Come? Facendo una grande ricerca, dandosi 20, 30 anni, 40 anni, però riuscire a realizzare l'accumulo, dove, non so, un eolico che si mette a girare nelle ore dove a me non serve, riesco a mettere da parte questa energia. Il fotovoltaico che durante il giorno la nuvola lo fa diventare intermittente, ecco che posso accumulare, o posso sovradimensionare una sua produzione perché poi me la ritrovo. Ecco, questo secondo me sarà il motivo di una grande ricerca, magari non andando più verso situazioni che fanno anche scontrare opinioni, e non solo, che sono il nucleare, sia esso fissione o fusione. Ecco, perché non lanciate voi questo grandissimo progetto? Perché sicuramente vi assegneranno il Nobel per la pace. Magari, allora, no, è troppo onore. Senta, io, se lei riesce, vorrei sentire insieme a lei Ottavio, un ascoltatore che chiama dalla provincia di Alessandria. Ottavio, buonasera. Buonasera. buonasera. Mi piacerebbe, se capisco bene il senso dell'intervento che mi è stato riassunto in poche righe, che potesse anche risponderle Giuseppe Fiannacca. Ci dica. Ma io, di fronte ai recenti aumenti, futuri aumenti delle bollette telefoniche in virtù del fatto che lo Stato deve telefoniche? Elettriche, deve recuperare in qualche modo il vantaggio che viene dato a chi installa impianti fotovoltaici, viene caricato sugli utenti questo, no? Mentre a mio parere dovrebbe essere caricato sulla fiscalità generale, cioè se lo Stato decide, come scelta dello Stato, di favorire l'energia pulita, allora deve andare non solo sugli utenti, che in definitiva sono incolpevoli, cioè voglio dire, usano l'energia elettrica, ma va a carico delle spese generali del bilancio della Stato. Non deve tradursi, a mio parere, in un automatico aumento delle bollette. Ecco. Chiarissimo, grazie Ottavio. Fiannacca, cosa ne pensa? E poi la lasciamo. Niente, il mio pensiero è questo, che uno Stato deve pensare come uno Stato, quindi in un contesto internazionale piglia impegni, firma trattati e li deve onorare. Per questo, evidentemente, onorando il Trattato di Kyoto e tutti quelli che poi ne sono conseguiti o comunque tutti i ritocchi che ci sono stati, non si può prendere direttamente un aggravio se non andarlo a distribuire a tutte le utenze. Quindi su questo punto sono d'accordo con le autorità che hanno deciso in una tale direzione. Evidentemente, se avessimo la possibilità di alleggerirla, sarebbe un bene per tutti in un momento anche certo, difficile. Di poca competitività che abbiamo, e uno dei motivi di questa poca competitività è l'eccessivo costo del kilowattora, e quindi sì, bisognerebbe fare tante cose. Ecco, però questo che ho lanciato, mi creda, può essere una delle soluzioni importanti per i nostri nipoti e pronipoti. Io mi auguro che ci siano persone in grado di coglierle, la radio ovviamente per quello che potrà, insomma, è quello che potrà, che riusciremo, che è nelle nostre possibilità, sicuramente diciamo darà il suo sostegno. Non so se abbiamo ancora l'ascoltatore che avevamo in linea poco fa, di cui non vedo però più il nome, forse Giorgio De Luca, Ottavio non c'è più in linea, però anche lui voleva parlarci di biomassa, e quindi forse lei, Fiannacca, era ancora la persona giusta per ascoltare l'intervento, ma non ce l'abbiamo. Era dalla provincia di Davide, dalla provincia di Treviso. Davide, c'è ancora? No, però lo ritroviamo. Allora, Fiannacca, io la ringrazio intanto per essere stato con noi. Davide da Treviso, se riesce, lo ascolti dalla radio, poi magari ci scrive, ci dice che cosa ne pensa, e perché appunto lavora nel suo stesso settore, quindi magari avevate anche la possibilità così di scambiarvi opinioni, idee e giudizi, però vabbè, lo ritroveremo in un altro momento. Nel frattempo abbiamo invece in collegamento, e questo invece è certo, Maurizio Alfredo Zordan. Buonasera. Buonasera. È un piacere sentirla, lei con la sua azienda che è la Zordan SRL di Valdagno, provincia di Vicenza. Andiamo sempre vicino a Vicenza questa sera. Vi occupate di arredamenti per negozi monomarca, e all'interno del Festival Città Impresa avete partecipato a un progetto specifico che si chiamava, e si chiamerà anche l'anno prossimo immagino, design, nel senso di design ovviamente, ma anche di segno d'autore, no? Questo era un po' il senso. Sì. Avete collaborato con un designer per trovare una soluzione su misura a un vostro tema, un problema, un obiettivo che avevate come azienda. Di che si trattava? Quale era il vostro obiettivo e come l'avete raggiunto? Qui stiamo parlando ovviamente di ambiente, di sensibilità ecologiche, quindi ovviamente il vostro tema è quello, no? Certo. Allora, il progetto non fa propriamente parte del core business dell'azienda. Noi facciamo arredamenti per negozi monomarca, quindi catene del lusso, clienti industriali del lusso, Bulgari, Ferragamo, Valentino, Tumi. E quindi diciamo abbiamo avuto attraverso questo lavoro la possibilità di guardarci in giro per il mondo, anche spesso in Asia, dove diciamo i fondamentali sulla, per quanto riguarda diciamo l'arredamento, che sostengono la crescita asiatica non sono propriamente conformi a quelli che sono i nostri modi di lavorare. Dalla grande crisi del 2008 è venuta fuori un'idea che era quella di rivisitare la filiera, diciamo, dei miei avi, cioè mio nonno, mio padre, che si approvvigionavano di materia prima nei territori circostanti e che con questa materia prima, fra l'altro di pregio, quindi legni di latifoglia, castagno, noce, ciliegio selvatico, rovere, frassino, costruivano i mobili che, certo, diciamo, che poi allestivano le case di del tempo. Mm-hmm. Quindi avete pensato di tornare un po' a quella parte del diciamo lavoro, di rivedere quella parte lì proprio nell'ottica di scardinare tutti quelli che sono, diciamo, gli attuali presupposti ecco, io quando sono andato in Cina 5 anni fa su uno studio della Federlegno leggevo che la Cina, che cresceva a ritmi del 50% di aumento della produzione ogni anno, importava circa il 10% di legno legale. Mm. Il resto era legno illegale importato dalla Malesia, Indonesia, Siberia, perché in Cina, dopo che avevano subito le alluvioni, avevano bloccato il taglio, certo, dei boschi. Mm-hmm. Ecco, quindi tutte queste cose qui ci fanno pensare su come sono i presupposti della crescita. Allora, tornando indietro, ci è venuto in mente di ripercorrere questa filiera. Fra l'altro, dal dopoguerra in avanti, i nostri boschi italiani e soprattutto anche i boschi dell'Alto Vicentino sono cresciuti indisturbati. Sì, la loro perché non c'è certo, è aumentata, è raddoppiata. Come era aumentata in tutta Italia, del resto. Sì, certo, ed è raddoppiata. Purtroppo senza la guida umana, quindi diciamo in maniera incontrollata. In maniera incontrollata, e in molti casi questa materia prima si trova già in una fase di depauperamento, cioè gli alberi vengono aggrediti dall'edera, dalle piante parassite, e quindi sono destinati a morire nel bosco, liberando in atmosfera, fra l'altro, l'anidride carbonica che hanno assunto nella loro crescita, perché l'uomo non ha più accompagnato l'uscita dal bosco del materiale disponibile. Con design questo progetto è riuscito a venire fuori dal cassetto, e quindi abbiamo incontrato Andrea Francesconi, che collabora con lo studio Cibic, con il quale ci siamo confrontati su questa, diciamo, idea un po' diciamo datata, ma con il desiderio di renderla contemporanea, di tornare a valorizzare quella che è la nostra il nostro, diciamo, patrimonio forestale, diciamo nel mondo d'oggi, quindi con le regole per gestire il bosco, con le tecnologie per sfruttare al massimo quello che è la materia prima e ridurre l'impatto ambientale, e anche il canale comunicazione che può dare la rete in questo lavoro. Sì. C'è stata piena sintonia dal punto di vista della motivazione. Il progetto è chiaramente ancora in erba, nel senso che noi avevamo individuato. Io le devo chiedere di chiudere rapidamente perché abbiamo le informazioni sul traffico. Sì, sì. Quindi mi dica dove siete arrivati, a che punto siete arrivati. Siamo arrivati ad andare nel bosco, a vedere che ci sono ancora segherie, a valutare che abbiamo ancora una fagnameria, perché noi siamo comunque di falegnameria come tradizione, che ci sono anche c'è anche una cooperativa che ha la capacità di fare delle finiture naturali sugli arredi. Abbiamo aggiunto ci mancava l'ingrediente del design, e abbiamo anche in corso una collaborazione con l'Università di Padova, con la Facoltà di Economia, per il piano di marketing. E quindi adesso sabato prossimo ci troveremo ai piedi della foresta di Giazza con Veneto Agricoltura Sezione Foreste per valutare la possibilità di certificare l'approvvigionamento della materia prima e partire col progetto che dovrebbe dare i primi risultati alla fine di quest'anno. Benissimo, farà anche manutenzione del bosco in un certo senso. Assolutamente così. Sì. E assolutamente non farà assolutamente male ai boschi italiani, anzi ce ne fossero perché di possibilità. Il legno nei mobili mantiene l'anidride carbonica, quando viene bruciato certo, si sprigiona. Grazie molte Maurizio Alfredo Zordan della sua, appunto, con la sua impresa la Zordan SRL di Valdagno. Viabilità. Strade in diretta. 22:45 minuti, una buona serata dalla redazione di Strade in Diretta. Le uniche difficoltà al momento sul tratto milanese della A4, dove si resta in coda per un incidente in uscita a Sesto San Giovanni allo svincolo provenendo da Torino verso Brescia. Nessuna difficoltà sul resto dei percorsi, segnaliamo la chiusura per lavori fino alle 18 di domani della 3 Salerno-Reggio Calabria tra Vibo Valentia e Rosarno in entrambi i sensi di marcia. Chiusa fino alle 6 di domani mattina per lavori la 14 Adriatica tra Senigallia e Ancona Nord in entrambe le direzioni. Infine, sino alle 6 di domani mattina, lavori anche sul raccordo anulare di Roma, chiuso tra la Tiburtina e la 24 in carreggiata interna. Ed è tutto, e al prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Gli speciali di Radio 24. Ultimo quarto d'ora per la notte verde del nord-est. Diamo subito la parola a Davide da Treviso, che avevamo in linea prima, poi è caduta la linea, poi insomma l'abbiamo richiamato, finalmente ce la facciamo. Davide, buonasera. Buonasera, buonasera. Ci voleva parlare di biomassa lei? Sì. Ma sì, ma a parte che in generale anche l'ultimo intervento, una cosa che non è stata detta ma è importantissima, i boschi in questo momento in tutta Europa, ma anche in Italia, sono in crescita. No, l'abbiamo detto ed è un dato importante per tanti motivi. Assolutamente molto importante, una parte della popolazione a questo non crede o comunque crede parzialmente, addirittura molta gente, io da molti anni ormai seguo praticamente la filiera, diciamo, delle caldaie a biomassa, lavoro per un'azienda austriaca che siamo nel settore come detto, delle caldaie, anche per la microgenerazione e centrali termiche, anche per teleriscaldamento, a legna, pellet e cippato. Molta gente non sa che il cippato, ad esempio, è un residuo di lavorazione spesso e volentieri che non viene assolutamente sfruttato in Italia, sì, se non in alcuni rarissimi, sì, casi, in rarissimi, ecco, casi. Sì. È un, a parte che potrei, cioè, come detto, sarebbe da fare molte più situazioni, diciamo, in radio anche con voi che siete molto bravi in queste cose qui, per spiegare alla gente. Scrivete così qua. Aumentano gli spazi, sì. Fatelo presente. Una cosa che volevo soltanto aggiungere, perché adesso salto da un argomento all'altro, ma è importante anche questo, è che da non dimenticare, naturalmente non possiamo fare la guerra tra le varie fonti rinnovabili o settori, diciamo, della green economy, però basti pensare che noi nel mondo della biomassa non abbiamo ricevuto molti finanziamenti, anche quasi non riceviamo finanziamenti, contro ad esempio invece il fotovoltaico, che ne riceve, diciamo, a miliardate, tanto per darci un'idea, siamo sui 6 miliardi solo quest'anno sul fotovoltaico. E anzi, da un certo punto di vista ci troviamo dinanzi a problematiche del tipo che le nostre fonti rinnovabili vengono addirittura legate con altre cose. Ad esempio, per avere il 55%, sì, Davide, faccia velocissimo perché ho altri due ospiti. Sì, per avere il 55% noi siamo obbligati praticamente a chiedere al cliente di cambiare anche le finestre, tanto per dare un'idea, che non hanno assolutamente nulla a che fare con la biomassa. Ci ha dato un'idea, sì, no, la devo salutare perché adesso, appunto, come dicevo, altri due, però ci ha dato un'idea del suo pensiero e non facciamoci la lotta l'un con l'altro, però ci sono forti disparità. Allora, Carlo Alberto Baesso, buonasera. Buonasera a voi. General Manager di Eurven, una delle aziende che hanno ricevuto il premio Città Impresa 2012, ha portato in Italia il Big Belly Solar, un cestino compattatore alimentato a energia solare di cui parlammo proprio all'altro pianeta, si ricorda, non molto tempo fa. Certo, mi ricordo. Allora, io mi ricordo, perché qui il tempo ormai ci sta sfuggendo tra le dita, mi ricordo che lei allora mi disse anche che credeva talmente tanto in questo prodotto, che poi è stato premiato proprio perché non solo ci credeva lei, ma ci hanno creduto. Non abbiamo ricevuto un solo premio. Appunto, non solo ci credeva lei, ma ci hanno creduto in tanti. Mi disse anche, tra l'altro, i comuni non hanno i soldi per sostituire tutto, io sono perfino disposta a non far pagare i cestini, ma a trattenere una percentuale sul risparmio che le amministrazioni faranno con questi Big Belly Solar. Qualcuno colse quella sfida? No, quella no. Ci hanno avuto il coraggio. Non sono ancora arrivati a questi livelli. Non hanno avuto il coraggio, però insomma io li ho visti in giro, ormai ne vedo tanti di questi cestini solari. Sì, cominciano a essere una realtà, perché la cosa più semplice è ridurre il volume dei rifiuti. Avendo ridotto il volume dei rifiuti, riduco il numero degli svuotamenti e quindi riduco i costi sia di trasporto che di personale, molto semplice. E quindi questa è stata l'idea, il lampo di genio, insomma, che vi ha portato a vincere tutti questi premi. Essendo alimentato poi con l'energia del sole, quindi non c'è bisogno neanche di alimentazione, si possono installare ovunque. Benissimo, senta, io adesso la lascio, però ci tenevo tanto a sentirla, perché appunto, diciamo così, mi sento un po' un precursore azienda. Perché comunque io sono stata tra i primi, era novembre quando ci sentimmo, è vero. E poi dopo lei via via ovviamente ha fatto il suo lavoro di imprenditore e sono contenta che appunto comincino a fioccare i premi per questi cestini. Grazie e buon lavoro, a risentirci presto. Grazie mille e buona serata. Allora, abbiamo un altro ospite già in linea, spero di riuscire a far sentire anche la voce del nostro ascoltatore, Paolo da Brescia, quindi se può resti con noi. Juan Antonio Ruiz Ricote, buonasera. Buonasera. Lei è responsabile economico e amministrativo per le sedi italiana e britannica di Isolux Corsan, che è una delle più grandi aziende per quanto riguarda ingegneria, approvvigionamento, costruzione di impianti solari fotovoltaici, e lei oggi ha partecipato a un incontro dal titolo Fare impresa, Green Economy, Sviluppo Sostenibile, come testimone di una azienda multinazionale che lavora in Italia. Lei vive in Italia da quasi un anno. Che cosa ha raccontato, diciamo, agli ospiti di questo incontro? Ho raccontato un po' la nostra esperienza qui in Italia, che è stato come primo è stato un po' difficile per non esistere l'esperienza sufficiente. Della gente aveva un gran interesse, ma non aveva una grande esperienza in sviluppo delle energie rinnovabili. Abbiamo raccontato un po' l'esperienza di fare la costruzione per esempio l'impianto più grande d'Europa che abbiamo fatto in Italia, abbiamo fatto a San Bellino, nella provincia di Rovigo. Di Rovigo, sì. E senta, com'è stato lavorare in Italia? Si dice sempre di questa terribile burocrazia italiana, della grandissima lentezza di tutto ciò che riguarda l'Italia, le decisioni italiane. Com'è andata? Giusto, quello è stato lo più difficile. Arrivare qua con una burocrazia che è molto, molto grossa è stato veramente difficile, ma abbiamo trovato partner qua che sono veramente bravi e abbiamo fatto grandi cose qua in Italia. Ma E pensa che riuscirà a farne delle altre di quel livello lì? Oppure vi siete un po'? di quel livello, credo, qua, almeno qua in Italia, no, è abbastanza difficile, anche in tutta Europa per la crisi così grossa che esiste. Penso che sarà ancora il più grande d'Europa per vari anni. Ma è difficile adesso costruire un impianto così grossi. Grazie molte della sua testimonianza e comunque anche della fiducia, diciamo, che ha avuto nell'Italia, nonostante tutte le grane che le ha fatto incontrare nel suo percorso per la costruzione della centrale di Rovigo. Grazie mille, Juan Antonio Ruiz Ricote. Buonasera. Buonasera. Allora, Paolo da Brescia, ce la facciamo se lei è rapidissimo. Buonasera. Sì, buonasera. Ce la fa? Sì, sono rapidissimo, ascolti. Noi abbiamo costruito per rilanciare un piccolo paesino alla Val Camonica ai confini con l'Aprica, dove ci sono gli impianti sciistici, siamo una società non molto grossa, però siamo molto sensibili per quanto riguarda il naturale. Abbiamo costruito queste case che sono al 100% naturali, costruite in legno, senza colle, con le vecchie spine come usavano i nostri nonni, con l'impianto fotovoltaico sopra il tetto. Però un po' di territorio me lo consumate comunque, perché poi ho avuto un ascoltatore che mi faceva proprio questo appunto. Noi lo consumiamo, ma piuttosto che, siccome comunque sia sarebbe stato costruito qualcos'altro, abbiamo deciso di costruire un qualcosa di naturale e di veramente bello, utilizzando comunque sia il minimo spreco, perché utilizzando i materiali di risulta dallo scavo, ad esempio i rivestimenti dei muri di legno sono stati fatti con la pietra ricavata dal posto, quindi uno zero trasporto. Noi facciamo parte del Green Building Council, che sono questi costruttori verdi. Sì, sì, sì, sì. C'è molto interesse, anche se il periodo non è bello, però noi comunque sia abbiamo riscontrato parecchio interesse da parte della gente, anche perché il prodotto è particolare. Grazie mille Paolo, la ringrazio per essere stato così bravo e breve. Per chiudere vi vogliamo far ascoltare un passaggio minimo di uno spettacolo che si è tenuto oggi a Venezia, 1-2 Trash, viaggio nel mondo dei rifiuti umani e disumani. Sentirete Linda Bobbo e Paola Brolati. Nello spettacolo ci sono anche le musiche dei Laguna Black, però qui non ci sono. Sentiamo questo passaggio e poi ci salutiamo. Norma, ma non ti ga mai vuoi neanche un tocco de homo. Ah, Amalia, sapesse quanti rifiuti secchi ho ricevuto da uomini inerti e anche un po' sciocchi. Devo ancora smaltirli. Io sarei per la regola delle tre R. Le tre R? Sì. Uno. Riduzione dei rifiuti secchi. Boh. Due. Recupero di rifiuti urbani solidi. Tossici, alcolisti. Giocatori compulsivi. Tre. Riciclo. Nella speranza di reperire almeno un minimo di sostanza organica che possa essere almeno potenzialmente utile. Ma dai Norma, ma cosa vuoi sto riciclare gli uomini? Se ti fissi con gli uomini, quello che va bene, se una notte e via, mordi e fuggi, usa e getta, vuoto, arrendere. Ma Amalia, io sono una romantica. Io vorrei un unico contenitore, formato famiglia, con pochi imballaggi a carico e che duri il più a lungo possibile. Lo capiomi, ma che genere di contenitore? Indifferenziato. Amore mio, smaltimento dei rifiuti è un problema, proprio perché ti finisci per andare a ravanare nel muccio se ti fa l'indifferenziato. Gli uomini, anche gli uomini, sono utili se raccolti separatamente. Ah. Ma ti ha mai sentito la frase che quando che ti innamori ti senti e campane? Sì. E se per quello che io ho fatto le campane, vabbè, la campana del vero, la campana della carta, perché ti gada raccoglierli separatamente. 1-2 Trash, viaggio nel mondo dei rifiuti umani e disumani. Oggi è andato in scena a Venezia Linda Bobbo, Paola Brolati, musiche dei Laguna Blè. Concludiamo così questo speciale che abbiamo dedicato alla Notte Verde del Nord-Est. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato a questo speciale, quindi Silva Menetto da Venezia, Pietro Lacorte che è stato in regia, Giorgio De Luca che ci ha supportato durante la settimana e supportato questa sera. Grazie anche al Festival Città Impresa che ha ideato la Notte Verde del Nord-Est. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto con Radio 24. Appuntamento con L'Altro Pianeta la prossima settimana, il sabato alle 15. Buonasera. Trenta minuti per raccontare una settimana di spettacoli. 140 caratteri per scrivere le vostre domande. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ogni domenica alle 8:30 su Radio 24 e sul Twitter di Marta Cagnola. Risponde Eurospin per te, la spesa intelligente. Quando compro, voglio sapere da dove arriva il prodotto. prodotto che acquisto. Anche da voi questo è assicurato? Come garantite il costo inferiore rispetto ad altri supermercati? Che differenza c'è tra Eurospin e il supermercato sotto casa? Sarei interessato ad aprire un negozio Eurospin. È possibile? Vai su radio24.it, entra nella sezione Eurospin per te, la spesa intelligente, e mandaci la tua domanda. Parenzo, ma hai messo le mutande in valigia? Le mutande? Ma perché? Che succede? Ma devi preparare i bagagli. Ma lei è impazzito? Ma perché? Ma perché andiamo in tour in tutta Italia? Lei, signor Cruciani, è il solito megalomane, veramente è impazzito. Ma no, è vero, un annuncio a tutti gli ascoltatori, portiamo la zanzara in tutta Italia, preparati, prepara le valigie, i bagagli, Parenzo! Per partecipare al tour della Zanzara Live, vai su www.radio24.it. Per ogni tappa, 100 di voi potranno assistere alla diretta del programma Senza Censure di Radio 24. Prossima tappa, 8 maggio, Torino. Sono le 23. GR 24, il sole 24 ore.